Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il mondo adulto ha accolto come paradigma e modello di successo l'eterna giovinezza. Sembra che crescere, invecchiare, stagionarsi sia un male. È sinonimo di vita frustrata o esaurita. Oggi sembra che tutto vada mascherato e dissimulato, come se il fatto stesso di vivere non avesse senso. A me fa pena quando vedo, pena un po', no? È elegante, ma quelli che si tingono i capelli, no? Com'è triste che qualcuno voglia fare il lifting al cuore. Oddio, questo non avevo proprio pensato. Fra tanti possibili motivi per sentirsi in colpa, sentirsi peccatori, sentirsi gli ultimi della terra, adesso il Papa ci ha messo anche questo macigno. Non vale per me, mi tiro fuori, mi è tinto un capello. Da anni mi dice il barbiere, facciamo lo sciampino. Sì, lo sciampino. Lo sciampino è quella robetta che mettono in testa i cinquantenni, che gli viene quella sorta di alone rossastro mogano, che è tristissimo, è vero, è triste. Oh, ma se a loro piace lasciateglielo fare. Se stanno meglio, si sentono più gagliardi, con quelle belle capigliature da Geppetto, lo facciano pure. Ma entra più in merito il Papa e questo non è assolutamente un tema superficiale. Triste tingersi i capelli. Allora, vale per gli uomini o vale per le donne? Se vale per gli uomini possono essere d'accordo. Vale anche per le donne? Allora quella che è la moda più radical chic possibile e immaginabile, che tutte le signore oggi si mettono dai 15 anni in poi i capelli grigi perché fa tanto figo, beh, evidentemente sono perfettamente in linea. Ma se fosse una sorta di disposizione generale per tutte le donne, non tingetevi più i capelli. Vedremo improvvisamente trentenni con la ricrescita di mezzo metro, perché prima che gli va via tutta la tintura sarebbe orribile. E allo stesso tempo, qual è il senso di colpa nel tingersi i capelli? Ma ci si tinge i capelli per sentirsi meglio con se stessi, probabilmente. Le donne lo fanno perché in effetti il capello grigio femminile mette un'immagine di mestizia, viene in mente le suore, viene in mente quelle signore che si dedicano comunque alla contemplazione, alle opere di bene. È giusto che ci siano, non è che tutte vogliono rappresentare quel modello. Il lifting, ma più volte abbiamo detto che in effetti l'esagerazione nella intervento chirurgico del proprio corpo, riplasmare il proprio corpo, è una caratteristica propria della contemporaneità che giudica transeunte il passeggero, il nostro aspetto e sul quale si può intervenire. Noi siamo una tavolozza, siamo fatti di pongo, possiamo comunque, visto che i mezzi lo consentono, rimettere le mani sul nostro corpo e sul nostro viso. A volte i risultati sono abnormi, a volte si creano delle specie di umanità che prima non esistevano. Bisognerà ristudiare quelli che sono i caratteri esteriori, morfologici delle persone in base a quelli che sono stati i flussi della medicina estetica. Ma questo, se uno vuole, può dire che orrore vedere oggi tutte le donne iperlabiate, con i pomelli gonfiati, con le rughe lisciate. Ma se loro fa bene, sono felici, sono contenti, pazienza. Sarà un problema di chi farà le resumazioni fra 10-20 anni. Ci saranno più sacchetti di plastica e placche d'argento a tirar fuori che ossa e cenere e poveri stracci. Beh, detto questo, voglio affrontare il problema. Lo sentite con un senso di colpa? Il vostro voler per forza mantenere la giovinezza fino ai limiti possibili? Il Papa ha detto una cosa molto precisa, dice quei genitori che fanno a gara con i figli. Io riflettevo su questo, io porto le stesse magliette, le stesse camicie, gli stessi pantaloni, gli stessi calzini, le stesse scarpe dei miei figli, ma non l'ho mai sentito come una colpa, lo sento come una felice omologazione. A volte ce le scambiamo quando le taglie lo permettono, in quella fase intermedia metto gli stessi vestiti dei miei figli. E cosa vuol dire? A un certo punto dovrei mettermi, non so, una grisaglia, dovrei mettermi un saio, dovrei mettermi un sudario, visto che mi sto avviando verso una fase estrema della mia vita. Beh, perché fermarsi su questi particolari, su questa esteriorità? Quanto sentite con senso di colpa, di afflizione, il fatto che in fondo si vive anche per essere più belli, per essere più accettabili, visto che oggi la vita ci permette un prolungamento della nostra fase non soltanto fertile ma anche amatoria, relazionale, e visto che tanti limiti anagrafici nelle relazioni sono caduti, perché non farsi belli per essere aperti a nuove forme di conoscenza, di relazione? 800 24 00 24, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. Volevo raccontarvi che oggi ho fatto un trattamento di ringiovamento facciale nella zona che ho trattato. Ci ho messo soltanto 10 minuti e ho diminuito visibilmente le rughe di espressione, ho diminuito le prime zampe di gallina, ho diminuito anche le rughe sulla fronte, ho alzato la palpebra che diventava già un po' cadente, ho chiuso i pori dilatati, ho trattato anche la zona del collo dove ho diminuito visibilmente le rughe, anche il doppio mento qua l'ho diminuito. E la cosa più importante è che la pelle è diventata soda. Io posso fare il pizzicotto in questa zona qua e la sento un po' flaccida, invece se faccio il pizzicotto qua sento la pelle soda. Vedete, è una cosa molto pratica, molto veloce. Volevo condividere. Quanti eoni, fantamillenni di purgatorio a farsi sta signora, perché si è divisa la faccia a metà, metà l'ha trattata con i segreti di Veronica, i segreti di bellezza di Veronica, l'altra metà non l'ha trattata e se si pizzicotta la parte, diciamo, infiltrata è soda e l'altra parte non è soda. Ma è una bella tecnica di restauro, somiglia molto a quello che fanno in alcuni paesi ai cadaveri per farli sembrare belli, freschi e sorridenti come se fossero vivi. Ma se questo qualcuno lo considera tra le forme di essere felice e contento, perché dovrebbe essere considerato un peccato? Cioè, dov'è la colpa? Deriva dal fatto che si nuoccia comunque al proprio prossimo. Il proprio prossimo può non guardarti se sei esteticamente corrotto, con tecniche sbagliate, esagerate, ma alla fine tu stai meglio, peggio per te. Magari è un problema che deve rientrare nella neuropsichiatria, le persone che esagerano con i trattamenti. Vorrei ritornare al fatto dell'inseguire la giovinezza. Sì, è vero, alla base di ogni colpa dell'umanità c'è sempre quello di aver voluto limitare quello che è il corso, fra virgolette, naturale delle cose. Ma secondo un corso naturale delle cose, ci vogliamo fermare, non so bene, a una lettura tipo biblica, io già dovrei essere considerato un patriarca, già i miei figli dovrebbero essere già nonni e via dicendo. Il mondo si evolve, è chiaro che noi dobbiamo far corrispondere comunque un aspetto fisico a quella che è la nostra posizione sociale, visto che andremo in pensione vecchissimi, perché bisogna andarci con le piaghe da decubito quando in realtà ci possiamo andare con un aspetto più scattante. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Come la vede buongiorno. Lei? Si sente in colpa? Lei ha peccato? Io la vedo abbastanza ridicola dal punto di vista degli uomini che stingono i capelli e delle donne che diventano tutte uguali con le plastichine messe di qua e di là. Non dico, per carità, uno può anche dire... Ma lei ha mai peccato lei in questa direzione? Prego? Ha mai peccato in questa direzione? Visto che... No, perché a me non interessa, a parte che la natura mi ha consentito di arrivare a 61 anni abbastanza integro, ma al di là di questo... Uno può anche farsi ritocchini, per carità, dal punto di vista estetico. Sono le esagerazioni quelle che danno... cioè, sembrano quando una donna... le donne diventano con le facce tutte uguali a faccia di gatto. Beh, insomma, poi ognuno... Dato che... Saranno fortunate quelle che non l'hanno fatto. Saranno merce rarissima. Andranno a ricercare come una volta si cercavano le principesse con la scarpetta di cristallo dal numero infinitesimale. Può darsi, fortunate anche, sono anche più apprezzabili. Certo. Sommato, perché accettare gli anni che avanzano credo sia una norma di buonsenso e di criteri. Poi sì, però posso dire una cosa, Massimo, un pochino fa parte anche della parte positiva della nostra evoluzione, che non ci buttiamo giù. Un sessantenne, tre generazioni fa, era una persona che se ne stava stravaccato con le bretelle, con il fiasco in mano e giocava a bocce. Oggi un sessantenne è una persona che ancora si sente socialmente attiva. Stava tutto il giorno in canottiera, per sì, esattamente. Cosa che oggi non si fa più. Ma pensi una donna quarantenne... Non è rifarsi e cercare che il tempo non passi, perché il tempo passa inevitabilmente per tutti. Ma c'è una percezione diversa del tempo. Rifatta, ci sono delle cicce flaccide e muscolenti, insomma. Ma su questo, che sono considerazioni soggettive di tipo estetico, il fatto che vada visto con senso di colpa, se il Papa dice che fa tristezza, il credente dovrebbe dire: se fa tristezza al Papa vuol dire che qualcosa è di sbagliato, quindi dovrei adeguarmi. Quindi da oggi potrei immaginare che le persone più ferventi, le sentinelle in piedi, smetteranno di tingersi i capelli, smetteranno di truccarsi, saranno in giro come, diciamo, delle icone di mortificazione. È giusto quello, è giusto sembrare come persone che si mortificano, quando poi la mortificazione tua, se corrisponde a un piano estetico, mortifica anche gli altri che ti stanno intorno. Paolo, buongiorno. Paolo? Paolo è caduto. Beh, allora andiamo avanti. Andiamo avanti nel dare consigli alle persone che comunque hanno problemi, che i capelli naturalmente a un certo punto diventano bianchi, quindi bisogna intervenire. Se ci fosse una sorta, grazie a Dio non c'è, di integralismo nel nostro paese, un canale YouTube come questo che dà questi consigli andrebbe messo all'indice. Se quando ci stiamo preparando, siamo pronti per uscire, ci trucchiamo, siamo così vicini allo specchio, così vediamo un po' di crescita, un po' di capelli bianchi, questo è il mio consiglio. Ta-da! Mascara! Vi faccio vedere come lo uso io. Tutto questo nasce perché diciamo che i capelli non vanno stressati più di una volta al mese, questo per quanto riguarda le tinture. Come vedete, basta una piccola pennellata, ma leggerissima, proprio leggera, e scompare la ricrescita, poi va via con l'acqua, si sa, è una cosa molto molto molto utile. Spero vi sia stato utile, appunto, scusate il gioco di parole. Questa signora addirittura si copre la ricrescita col mascara, come se un uomo ci mettesse il lucido da scarpe. Se dovesse sudare un po' o esserci un pochino di escursione termica, avrebbe dei rivoli neri lungo la fronte. Ma il Papa è entrato un pochino anche nei particolari. Dice: com'è triste che qualcuno voglia fare il lifting al cuore. Il lifting al cuore non lo so cosa intende, forse un'angioplastica, non lo so se è il lifting al cuore, evidentemente comunque. Dice: è doloroso qualcuno voglia cancellare le rughe di tanti incontri, tante gioie, di tante tristezze. Ma da quando eravamo ragazzini che ci cancellavamo i succhiotti col dentifricio. È chiaro che anche i segni che lascia la vita non sempre uno se li vuol portare addosso. Ci sono segni che vanno nascosti, le cicatrici delle operazioni si nascondono, le cicatrici degli incidenti si nascondono, l'acne juvenilis lascia delle tracce indelebili, anche quella se uno può se la nasconde. Marco, buongiorno. La sto ascoltando. Buongiorno Nicoletti. Sì. Sono Marco di Mantova. Sì. Ma il Papa, lui di cosa si interessa di queste cose? No, ma siccome siamo rispettosi e vogliamo in qualche maniera tenerne conto, non è che lo dico con senso di irrisione, visto che il Papa entra in merito a vicende quotidiane come quella che è la toletta quotidiana di una persona o l'andare dal parrucchiere o dall'estetista, cerchiamo di capire, perché vorremmo il più possibile entrare in merito. Qual è allora il suo punto di vista? Lui deve occuparsi delle anime, non della gente che si tinge i capelli. Beh, però la Chiesa è sempre occupata anche molto dei corpi. Ho capito, va bene, ma la Chiesa ne ha anche bruciati tanti corpi. Sì, sì, è proprio per quello, perché a un certo punto lei c'è una radio accesa. Marco, spenga la radio. Non riesco a capire, Nicoletti, cioè, come lui possa dire queste cose. Beh, evidentemente il Papa ha individuato una sorta di deriva verso la secolarizzazione dell'umanità in questa cura esagerata del proprio corpo. La Chiesa ha sempre, diciamo, in qualche maniera dato indicazioni nella continenza. La continenza vuol dire non indulgere in quelle che sono le pompe sataniche, le seduzioni legate alla vita secolare, ma pensare più alla vita interiore. In questo momento vede come forma di massima espressione di questo indulgere sull'aspetto terreno la cura esagerata per il proprio corpo. Certo, devo dire una cosa, ma in questo, se lo dicessi, potrei anche sembrare eccessivamente arrabbiato con certe manifestazioni, ma l'avete visto quanti cardinali stingono i capelli? Cioè, avete fatto una passeggiatina in quelle vie intorno al Pantheon a Roma, dove vendono orpelli religiosi, mantelline ricamate, babucce vellutate, pastorali storiati? Beh, questo secondo me è altrettanto grave che mettersi un po' di tintura nei capelli quando uno c'ha la ricrescita. Fabio, ma chiamano solo uomini, le donne che sono le prime chiamate in causa, signore, siete le prime chiamate in causa, io posso parlare quanto volete, ma che gli uomini stingano i capelli sono ridicoli quando già semplicemente si vedono, già in sé è una dichiarazione di resa l'uomo che stinge i capelli. Ma le donne stingono sempre i capelli, è normale stingano i capelli, banalmente è una delle attività settimanali che più impegna le signore, nessuno le sente toccata, nessuno le sente chiamata in causa. Questa mattina sembra perfettamente normale, Papa dica che tristezza chi stinge i capelli, tutte con la crescita da domattina, ma fate un po' voi. Fabio, buongiorno. Buongiorno. parliamo tra uomini, visto che le donne su questo tema non vogliono entrare in causa. Benissimo. Vediamo. Allora ancora un uomo. Ma il Papa potrebbe entrare anche in particolari, allora anche la depilazione è ancora peggio, scusi. La depilazione, ci sono tonnellate di pubblicità di donne con le strisce che si depilano le gambe. Quella poi è finalizzata alla lussuria, al peccato, alla concupiscenza. Perché non entra in campo sulla depilazione brasiliana, ad esempio, il Papa? Che sarebbe qualcosa su cui ci sarebbe molto da dire rispetto all'oltraggio della natura. Però chissà perché nessuna donna interviene. Fabio, andiamo avanti. Allora, premetto perché non sono credente nella Chiesa, no, ma questo non importa, però noi abbiamo rispetto di quello che dice il Papa. Nel senso che il Papa probabilmente con questa uscita si coprirà un pochino di ridicolo, quello che volete, però io sono d'accordissimo sul fatto, ma estenderei a un raggio più ampio, nel senso io sono contrario, ad esempio, a trascinare questa vita, cioè non rendersi conto che la vita ha un inizio e una fine, e non per questo dobbiamo per forza arrivare a tutti i costi ad apparire, perché alla fine è fatto solo per apparenza. Sì, ma lei cos'è? Scusi, per lo sterminio volontario, quando si arriva a una certa età uno si elimina? Assolutamente no, il corso della vita, il corso naturale della natura, proprio della vita. Ma scusi, il corso naturale, se lei non fosse stato vaccinato e non prendesse medicine, magari era già morto. Il corso naturale accetterei questo, non c'è nessun problema, assolutamente. Ma non per questo lo impongo agli altri. Io sono così, ma lo vedo proprio così, non vedo sto accanimento ad apparire, ad essere belli, ad essere la Sofia Loren. Ma perché questo mi interessa, perché lo vedo come qualcosa di negativo? L'accanimento, la cura nella propria parte estetica. La natura deve fare il suo corso, Ma qual è il corso della natura? Mi scusi. Il corso della natura è quello che è destinato chi ci ha creato. Ma lei la barba se la fa la mattina, Fabio, se la fa la barba la mattina? La faccio la mattina esclusivamente per un fatto... La sua natura sarebbe avere la barba lunga. Se li lava i piedi, lei, sì, sennò puzzerebbe. Sì, vede che già... è la decenza per restare in una società. Sì, ma lei deve capire, Fabio. In una baita... questo limite è soggettivo. Per qualcuno stare decentemente in società vuol dire anche avere un bell'aspetto, essere gradevoli d'aspetto, essere piacevoli. Lasci che ognuno abbia libertà. Gradevole potremmo discuterne fino al 5.000 ai mostri che vediamo in giro oggi. Ho capito. Però per carità. Ma una volta si diceva, scusi Fabio, si diceva donna baffuta, donna piaciuta. È sempre relativo. Non possiamo avere una visione personale che copra tutte le altre. Recentemente stanno girando in rete le foto dell'harem di uno sceicco ottocentesco che fece fotografare tutte le sue concubine. E noi pensavamo che Shahrazad, Le Mille la Notte, era lo scià di Persia. Sono delle signore che oggi sarebbero ridicole, abbastanza tozzarelle, ma questo non dice niente. Le vestiva con delle gonnelline corte, una specie di bermuda al ginocchio fluorescenti, con dei calzettini bianchi da tennis nell'Ottocento e con delle scarpe a tacco basso e con i baffi e la barba. Sembravano uomini, c'erano baffi e barba. L'harem dello scià di Persia, un secolo e mezzo fa, erano donne baffute e barbute, e poteva scegliere lui, figuriamoci di bellezza, sceglieva le donne con i baffi e con la barba. Quindi il modello di piacevolezza è soggettivo. Se oggi le persone pensano di essere più gradevoli anche facendo innesti sottopelle, ma io non lo porrei come un limite o come un obbligo non farlo. Fatelo, potreste pentirvene magari, non tornare indietro, ma fatelo. Per i capelli tinti, se oggi l'estetica generale fa sì che le donne debbano tingersi i capelli o si tingano i capelli o sia per loro piacere tingersi i capelli, porlo già come un limite di tristezza e tornare tutte, diciamo, al taglio corto, monacale, grigiastro, anche in età non proprio decrepita, forse probabilmente darebbe un senso generale di disperazione. Sembrerebbe di stare, non lo so, in una galera, in un carcere, in un mogolo di reclusione. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Melog. Cronache meridiane. Volevo un attimo spiegare come si possono coprire i capelli bianchi. Mi sono un attimo letta un qualcosina su Wikipedia per sapere proprio come funziona, insomma, questo sbiancamento proprio in modo specifico. Sapevo semplicemente che appunto il capello bianco non ha più il pigmento, eccetera. E il capello bianco diventa bianco improvvisamente, non è che tipo adesso capello castano diventa piano piano sempre più chiaro. Io potrei svegliarmi domattina, fammi i corni, che ho un capello bianco così improvvisamente, proprio la mancanza appunto di pigmento, di melanina, mi pare che si dice, improvvisa, toglie tutto il colore, non è che lo toglie gradualmente. L'incubo del capello bianco, il primo capello bianco, sintomo del tempo che è passato. Oggi entriamo in merito a un avvertimento del Papa che tutti mi stanno sottolineando, era una metafora, era un avvertimento tipo spirituale, va bene, però lo dice chiaramente. Porta l'esempio di Anna Magnani che disse una volta: ah, che belle le mie rughe, ci ho messo una vita a farmele perché dovrei rinunciarci. Ma frase pronunciata probabilmente negli anni 70 da una donna che era una maschera, e poi per quello aveva un successo come attrice, una maschera di sofferenza, di espressività, però un'attrice era una, era Anna Magnani. Farei un sondaggio fra le persone che mi ascoltano: quante benedicono le loro rughe? Ci sono, si tengono, se uno prova si mette qualche cremina, se uno va ancora un po' più avanti cerca di lisciarsele, non se ne fa un grosso problema, bisognerebbe non farsi un grosso problema, ma il tingersi i capelli lo trovo che sia qualcosa che però va un po', è un po' estrema come lettura. Vediamo cosa ne dicono, perché hanno chiamato qualche signora, ha chiamato. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io credo che lei abbia dato una lettura del messaggio del Papa poco precisa. Ma di a lei quella giusta? Ecco, no, io non so, io le do la mia. Secondo me l'invito del Papa non era un invito a non tingersi i capelli, non usare il rossetto, non usare... Scusa, quando uno dice che è triste tingersi i capelli, cosa vuol dire? Secondo me lui quando dice che è triste tingersi i capelli intende dire che è triste... sono tristi quelle persone che fanno di queste cose una ragione di vita, al punto da pensare che la vecchiaia e il decadimento fisico siano sinonimo di fallimento, perché questo vorrebbe dire anteporre il corpo all'anima, che cristianamente parlando è quella che vale di più, è quella che racchiude, sì, ho capito, la nostra, signora, identità, ed è quella che andrebbe nutrita e curata. Ok, Cristina, questo lo dice lei perché ha una fede, ma per la maggior parte degli esseri umani... Ma io penso che il Papa la veda in questo modo, non penso che il Papa sia così sciocco da invitare a boicottare in automatico, no, chi si occupa di estetica, ecco. No, ma non ho detto questo, però ha dato un'indicazione ben precisa, è entrato in merito, non è che si è fermato a un aspetto metaforico. Che triste tingersi i capelli, quindi deduco che le persone che danno un maggior valore all'anima non dovrebbero tingersi i capelli, avere un segno esteriore, no, del fatto... No, secondo me no, le persone che danno maggiore valore all'anima devono prima di tutto curare l'anima, poi se a loro piace mettersi il rossetto, va benissimo. Ma questo dice lei, scusi, lei stava... mettano l'anima prima del rossetto. Sì, ma lei fa la predicatrice di mestiere, scusi, il Papa non ha detto questo. La predicatrice, secondo me però le due cose non sono contraddittorie. Sì, ma lei mette in bocca al Papa. Sì, ma lei mette in bocca al Papa cosa che non ha detto. Ma no, non voglio demonizzare. Io lo preso innanzitutto con senso di divertimento, perché un Papa che di solito parlavano almeno una volta i Papi soltanto in termini assoluti e super spirituali, dice proprio nello specifico che tristezza tingersi i capelli, mi viene in mente il Papa che c'ha davanti le signore con il domo pack in testa, con il signore con il ragazzo che gli mette la cremina in testa, e dico: ma quelle sono tutte destinate all'inferno. Lei fa una sua lettura più profonda, ma... Io faccio una mia lettura. Sì, ma fa bene. Lei si tinge i capelli? Io non tingo i capelli perché li ho schiariti con i colpi di sole proprio per prevenire il capello bianco. Eh beh, vedi, scusa, non si prende in giro. Io infatti ci sono dentro, uso anche il rossetto, curo il mio aspetto esteriore. Perché lei c'ha l'anima già curata per questo? No, però curo anche quella. Ma l'anima come si cura? No, mi spieghi come si cura? Il monito del Papa era... non occupatevi solo dei vostri capelli bianchi, perché prima dei capelli bianchi c'è qualcos'altro, anche perché se vi occupate solo di quello sarete comunque destinati a soffrire, perché prima o poi il decadimento fisico comunque sarà inevitabile per tutti. Io credo che il monito fosse questo. Il decadimento fisico, almeno sa, le persone danno una prova oggettiva. Di dove vada a finire l'anima ancora nessuno ce l'ha mai detto con certezza, se non per atto di fede. Però qua si parla di un invito del Papa, quindi io faccio una lettura. Va bene, è lecito. Mi sarei aspettato che le signore dicessero: no, tutte in piazza San Pietro con i capelli tinti di giallo, verde, rosso e blu, per vedere al Papa che possiamo essere donne comunque integre anche tingendosi i capelli. Comunque non è così. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei come la pensa? Io i capelli li tingo, voglio avere un aspetto curato, ma curo anche la lettura, curo lo sport, le passeggiate, amo l'arte. Ho fede, ma ritengo che la fede sia un fatto squisitamente personale rispetto le scelte di ogni essere umano. Possono tingere i capelli color arcobaleno, quello che a me interessa maggiormente è il dialogo, la leggerezza dell'anima, il fatto di poter... Sì, ma l'anima, mi scusi, no, Laura, qua sembriamo tutti, sembra che siamo tutti toccati da una luce divina quando parliamo. Siamo concreti, la leggerezza dell'anima c'è anche quando c'è persone leggere e leggiadre intorno. L'essere leggero non è considerato... Io ho un figlio portatore di handicap. Anch'io, e allora... posso dire con... Anch'io ce l'ho, con questo... Lo so, con assoluta serenità, che se mi dispongo nei confronti di mio figlio con la voglia di giocare insieme, con il desiderio di ascoltarlo, di interagire con lui... Sì. Io sto bene. Quindi. Ma non c'entra. Faccio. Laura, continuate a portarmi davanti tutti il vostro compitino di brave persone. Non c'entra nulla. Io ho detto, può essere considerato nella società contemporanea un termine di disistima al fatto che una donna stinga i capelli. Questo dico semplicemente. Non portiamo l'elenco delle proprie brave azioni. Una donna non si tinge i capelli per parlare col figlio con handicap. Si tinge i capelli per essere più apprezzabile, più bella, più desiderabile, per essere una ventata di leggiadria, di bellezza e di piacevolezza quando passa per strada. Questo è il motivo per cui ci si fa belli. Non ci si fa belli per star bene dentro. Questo lasciamolo dire alle persone che rispondono nelle rubriche, nei giornali femminili. Gilda, buongiorno. Buongiorno. Mi tiri su un po' lei, perché sennò veramente mi sta venendo una tristezza abnorme proprio. No, ma perché? Assolutamente. Vabbè, ma sembra solo beghine ci sono in questa trasmissione. Che le cose che hanno detto la Cristina e anche la Laura poc'anzi le condivido pienamente. Aggiungo solo un'altra cosa, che il Papa, secondo me, voleva forse fare una bella provocazione. Certo. E voleva... Quando uno dice una cazzata è sempre una provocazione. Riuscito, lei c'è riuscito, perché lei ha messo su tutta la trasmissione su questa cosa. Sì, secondo quindi me sì, ha raggiunto il suo scopo. Sì, allora, fatto io per le dico me, Papa. Solo questo, che da quando ho veramente aperto il mio cuore alla fede ho capito che l'uomo spesso... No, trasformiamo in Radio Maria questa radio. No, non è così. Non è rappresentativo della media delle persone che la mattina ascoltano radio. Quattro donne che telefonano e quattro donne che dicono che fanno bene e che fa bene all'anima. Non è così, il mondo non è questo. Datemi perlomeno un segnale che non esista più soltanto questo o soltanto queste persone ascoltino la radio a quest'ora. Verrebbe una tristezza immensa. Tutti aprono il cuore, tutti hanno fede, benissimo, rispettabile, mica dico non si deve fare, ma ci fosse una donna che mi dice ma posso essere libera di tingermi i capelli senza sentirmi una donna segnata, una donna che non considera la propria anima, può essere che un papa ci deve anche dire se ci dobbiamo tingere noi i capelli, ci fosse una donna che me lo dice. Ida, buongiorno. Pronto? L'ascolto, Ida. Ah, ecco, buongiorno. Dunque, io non metterei la cosa tanto sul piano dell'anima o altro, per perché fortuna. Il Papa poi è anche molto concreto, lo trovo anche molto, molto terra a terra, insomma, voglio dire, molto concreto. Io direi che è piuttosto una questione di autostima, il tingersi i capelli, il farsi il lifting, tutte queste cose. E se uno autostima si sente bello anche se ha le rughe. Ma lo sa quando una Ida, quando una, quello che ho capito dalla vita, poi non so, magari lei mi insegna più. Una autostima quando gli altri ti guardano e dicono quanto sei bello, quanto mi piace. Infatti, il mio caso è proprio questo. Cioè io è da 2 anni o 3, prima un po' mi ritingevo, ma diciamo talmente, poi ero bionda, quindi il capello bianco l'ho avuto da giovane, ma non si notava praticamente. Era platinato. Dei colpi di sole. Dopodiché da 2 o 3 anni non mi ritingo più perché è proprio una seccatura, non mi interessa, ho la fortuna di non avere rughe, tutti mi danno meno dei miei anni. E quindi è come se avesse attaccato il perizoma al chiodo. No. Non si tinge più i capelli. Vabbè che oggi va di moda però. Ma appunto poi hanno detto giusto alla Radio 24 che Christine Lagarde è una total white come me. Io sono... Sì, ma anche ragazzine di 15 anni. Di quanti ne ho. Come? Anche ragazzine di 15 anni oggi sono total white. Si vanno a sbiancare i capelli. Addirittura mi avevano chiesto se mi tingevo di bianco. Perché sia io che mamma, che ormai non ho più, perché sono appunto grandicella, abbiamo sempre avuto la fortuna di avere una pelle bella, un fisico piuttosto asciutto. Non siamo... Insomma... era una bella ragazza, adesso sono una discreta anziana donna, diciamo. E quindi direi che il Papa puntava di più sull'autostima, cioè sulla forza di se stessi, insomma. Sì, ma se io mi sento autostimato la mattina se esco e c'ho una bella camicia, mi sento autostimato se riesco a aver tempo di ritagliarmi la barba nel modo giusto, mi sento autostimato se vado dal barbiere e mi faccio un bel taglio. Perché dovrei sentire questo come un limite alla mia capacità di coltivare l'anima? Comunque, ecco, mi conforta l'SMS. Di solito gli SMS mi arrivano i calci in bocca. Scrive un ascoltatore: secondo me il Papa ha parlato, perché capissero, ai loro cardinali che stingono tutti i capelli, e quindi quelli che davanti a spesso stingono i capelli. È vero, man mano che si sale nella gerarchia ecclesiastica c'è sempre più tintura nera. Cardinali decrepiti hanno dei capelli nerissimi, sembrano tinti con il nero fumo, sembra che il diavolo abbia lambito quelle capigliature sante, però è così. Fermiamoci un istante, tra poco vediamo grandi se riusciamo... cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Melog, cronache meridiane. Innanzitutto volevo dire che non è vera la storia del capello bianco, che se lo stacchi te ne crescono altri 7, altri 20 o quanti ne sono. Non è assolutamente vera, non è vera, perché ho proprio una diceria. Perché posso proprio farvi un esempio pratico. Ho un paio di amiche a cui ogni tanto faccio la piega e mi dicono: staccalo direttamente il capello bianco, se lo vedi magari ce l'hanno 2 o 3, e quando lo stacchi ovviamente non ne crescono altri 7 quando vado a rifargli la piega dopo, o c'è quello che ho staccato oppure non è ancora ricresciuto, non c'è niente. Quindi 800 24 00 24, ormai è diventato una questione tra me e le mie ascoltatrici. Mi arrivano SMS indicibili, non posso nemmeno leggere, ma trovo e ripeto qui la mia perplessità. Mi sarebbe piaciuto, e inseguo quelle leggiadre ascoltatrici, una volta mi seguivano in follie e in mostre, in musei, in avventure indicibili, che si facevano sollevare per sentirsi donne leggere senza sentirsi in colpa. Adesso sono finite. Una sfilza di signori che mi chiamano e dicono: no, ma c'ha ragione il Papa, bisogna pensare all'anima, perché bisogna dare troppo eccessivo rilievo al proprio aspetto esteriore. Mettiamoci tutti i capelli grigi, abbassiamo la testa, siamo già pronti per essere un esercito di penitenti. Isabella, buongiorno. Isabella. Io chiamavo, sì, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Mi dica subito che parte sta, perché la depressione... Io spezzo una lama a favore del colore. Oh, perfetto, almeno questo. Sì, e lo dico, io lavoro nel settore dell'hair care e quindi conosco bene il pubblico che va dai parrucchieri, le donne in generale. Lei difende il suo lavoro, però non vale questo. No, non dipende il mio lavoro, perché è casuale, io ho fatto anche altro, io mi occupo di strategie di marketing in tutti i settori. Quindi io studio le persone, che poi vadano al parrucchiere, vadano al supermercato, in vacanza è sempre una questione di... è sempre la stessa persona e si manifesta in ambiti diversi. Ecco, secondo lei sono persone che non hanno una profondità interiore, quelle che stingono i capelli? No, spesso ce l'hanno. È poi una questione di buon gusto, come gli abiti. Allora, io ho visto, io credo che una persona che stinga i capelli, anche di colori improbabili come vanno adesso, anche una ciocca o delle nuance, in realtà rappresenta una donna che ha tanta autostima, perché ci vuole anche un po' di coraggio. Io per esempio non sarei in grado di farlo. Vabbè, io non ho i capelli bianchi, ma non importa. Come lei chiacchiera, ma c'ha i capelli bianchi? No, io non ce li ho bianchi. Che colore? Io miei che sono colorati, io sono biondo scuro, è fatto. No, però dico che è spesso è indice di grande vivacità, di grande assertività di queste donne, e anche di grande autonomia, anche di pensiero. Quindi io poi mi segue, Isabella, mi segua. In questo momento il punto di maggior contrasto fra questo scontro fra civiltà, fra diciamo l'Occidente cristiano e l'Islam, è proprio sui capelli delle donne. La differenza è le donne velate, coperte, e le donne scoperte. Mentre da una parte siamo così bravi a dire che noi siamo liberi, siamo aperti, abbiamo fatto un salto di civiltà e non tolleriamo che venga imposto alle donne di coprirsi i capelli, d'altra parte diciamo sì, scoperti, ma devono essere grigi, devono essere mesti, non devono troppo darne l'occhio. Trovo che ci sia quasi un cedimento a un'idea di mestizia. Laddove non ci sono donne allegre, non ci sono donne che si fanno comunque portatrici di felicità, di leggerezza, sono delle società terribili, diventano solo gli uomini, infatti, i padroni di ogni immaginario. Non è così? Infatti. infatti io penso che quando c'è una sciatteria esterna spesso corrisponde anche una sciatteria interna, mi spiace dirlo, ma spesso è così, e poi non vedo perché ci si debba punire. Come una persona cerca di essere profumata, pulita, gradevole per sé e per gli altri, non vedo perché non possa giocare con i suoi capelli. Perché se il punto, scusi, se il punto di tendenza è che le vere donne sono le suore o sono quelle che comunque hanno l'aspetto esteriore, mi sembra che lo faccia capire chiaramente, è logico che le donne devono tutte trasformarsi in penitenti. Guardi che chi disprezza le donne, che comunque sia in tutte le possibilità e declinazioni che a loro ha fornito la natura, di essere alte, basse, grasse, magre, prosperose, piatte, via dicendo, comunque sia tutte le volte che portano con leggiadria la gioia del loro aspetto, ma la società è migliore, gli uomini sono migliori, gli uomini che impongono alle donne mestizia sono uomini che vogliono trasformare la società in una sorta di delirio. Donatella. Eccomi qua. Allora, io come spiegavo prima sono una persona che ho 69 anni, mi tingo i capelli, sono rossa e mi piaccio, vado dall'estetista, mi curo e non ci trovo niente di male, perché questo non toglie il fatto che curo l'anima a modo mio, verso altri discorsi. Penso che sia doveroso, come diceva la signora prima, oltre che per noi stesse, prima, anche per chi ci sta accanto, perché piuttosto i miei nipotini che avere una nonna scialba, triste, vestita di grigio, io invece mi trovo bene così e non tolgo niente a nessuno. Ecco, anzi, un'altra cosa, però, su un'altra cosa voglio riflettere con lei, Donatella. L'accusa si dovrebbe fare rispetto alla mia visione scanzonata di una femminilità che sia anche gioiosa, dice: sì, tu uomo vorresti trasformare le donne in una sorta di bambole, i manichini truccate, imbellettate, perché neghi a loro la possibilità di avere anche altre dimensioni. Lei trova che sia così? Cioè l'essere gradevole, bella poi è un concetto molto soggettivo, una può essere bella per qualcuno e brutta per l'altra, ma l'essere gradevoli comunque sia per uomini che per donne non fa parte di una delle qualità di una persona, come anche l'essere intelligenti, l'essere profondi, l'essere spiritualmente accettabili? Secondo me sì, anche perché trovo l'esagerazione non va bene mai da nessuna parte. Io trovo che il curarsi, aver cura di sé, è come aver cura degli altri, aver cura nella cucina per la famiglia, aver cura della casa che sia in ordine. Io ho fatto per tanti anni la mamma, perciò parlo anche per questa esperienza. Trovo invece che sia proprio giusto. Io mi ricordo mio papà, un uomo di grande cultura, un uomo che si faceva la doccia tutti i giorni, perché diceva: non vorrei mai che un mio nipote si avvicinasse e mi sentisse puzzare. Ma perché è un'eccezione fare la doccia tutti i giorni? No, scusa. Beh, sì, mio papà è morto nei primi anni 90. Ah, beh, certo, sì. Per le altre generazioni sì, si faceva un bagno il sabato se andava bene. Bravo, giusto. Bravo. Invece mio papà si faceva la doccia tutti i giorni e in ospedale in quell'epoca era l'unico che usava il bagno, tanto è vero che gli infermieri lo cercavano perché non lo vedevano nel letto, e lui era l'unico che usava la doccia negli anni 90. Cioè, noi siamo state educate così, senza forzature, non fatto. Però lei Donatella mi fa riflettere sul salto avanti che abbiamo fatto in civilizzazione rispetto alla generazione precedente, che si faceva un bagno a settimana, se no, il fatto che oggi si faccia docce frequenti rientra proprio nella cura generale della propria persona, della propria gradevolezza come strumento di fluidificazione sociale. E forse tingersi i capelli esattamente nella stessa direzione, farsi belle nella stessa direzione. Stiamo Monica, velocemente. Monica, sono Monica da Livorno. Sì. Buongiorno, sì. Nicoletti. Senta, mi tiri su questi 20 secondi, io, perché francamente faccio le mesh da quando avevo 17 anni, ora ne ho 54 e continuo tranquillamente a farmele perché ho i capelli chiari, quindi e non si confesserà per questo, non si confesserà per questo. No, non mi confesserò. E questa cosa di sentirmi in colpa, spero che abbia cose ben più profonde, ben più gravi, confessabili ma inconfessabili naturalmente. Alla prossima, cercherò di tirarmi su con un margarita.